La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato alla storica rivalità tra Polonia e Russia, la cui ultima rappresentazione è stata la partita dello scorso 12 giugno agli Europei di calcio. In campo la nazionale russa contro quella polacca, un arbitro tedesco e due guardalinee ungheresi. Uno scenario da prima e seconda guerra mondiale che ci viene oggi spiegato da Andrea Graziosi, docente di storia contemporanea all'Università Federico II di Napoli. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in seguito vi farà ascoltare un radiodocumentario dedicato allo stretto legame fra fede religiosa e il successo negli affari. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. Polonia e Russia, una rivalità secolare che si esprime anche nello sport più popolare, il calcio. Scontri, feriti, fischi e agli inni nazionali. Tutto questo è avvenuto il 12 giugno nella partita tra Polonia e Russia agli Europei di calcio in corso in Polonia e Ucraina. Segno appunto di una storica rivalità mai sopita che riemerge a ondate, come ha scritto Antonella Scott sul sito online del Sole 24 Ore. Polonia e Russia condividono secoli di guerre, spartizioni, annessioni, odi. Il prezzo, come spesso avviene, del loro posto fianco a fianco sulla carta geografica. Il primo tempo, per così dire, essendo partiti dal calcio, i polacchi lo hanno giocato fuori casa, trascinati dalla Lituania nel Granducato di Moscovia. È il 17 secolo, gli anni dei falsi Dmitri, pretendenti al trono degli zar appoggiati dai sovrani polacchi, cattolici, per indebolire quello che sarebbe diventato l'impero ortodosso dei Romanov. Quando il primo falso Dmitri sosteneva di essere figlio di Ivan il Terribile, venne catturato e ucciso, i boiari caricarono un cannone con le sue ceneri e spararono in direzione della Polonia. È come se la storia avesse voluto avvelenare per sempre le relazioni. Nei secoli successivi i russi si unirono agli Asburgo e ai prussiani per spartire la Polonia fino a cancellarla dalla mappa. Poi per Varsavia, riconquistata l'indipendenza, venne la guerra con la Russia bolscevica. E venne la coltellata alla schiena di Stalin che il 17 settembre 1939 entrò in Polonia da est, 16 giorni dopo l'invasione nazista da ovest. Con il patto Molotov-Ribbentrop firmato a Mosca il 23 agosto del 1939, la Germania nazista e l'Unione Sovietica avevano sottoscritto un accordo di non aggressione che ebbe come prima conseguenza proprio la spartizione del territorio polacco tra sovietici e tedeschi e l'occupazione delle repubbliche baltiche da parte dell'Armata Rossa. Ecco quel che prevedeva il protocollo segreto aggiuntivo. In caso di riassetto territoriale e politico nei settori appartenenti agli stati baltici, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, il confine settentrionale della Lituania rappresenta il confine delle sfere di influenza della Germania e URSS. A questo proposito, l'interesse della Lituania nella zona di Vilna è riconosciuto dalle parti. In caso di riassetto territoriale e politico delle aree appartenenti allo Stato polacco, le sfere di influenza della Germania e dell'Unione Sovietica sono delimitate approssimativamente dalla linea dei fiumi Narev, Vistola e San. Il problema di sapere se gli interessi di entrambe le parti rendono auspicabile il mantenimento di uno Stato polacco indipendente e come tale Stato debba essere limitato può essere risolto solo nel corso di ulteriori sviluppi politici. In ogni caso, entrambi i governi risolveranno la questione per mezzo di un accordo amichevole. Per quanto riguarda l'Europa sud-orientale, la parte sovietica reclama il suo interesse per la Bessarabia. La Germania dichiara il suo completo disinteresse per questi settori. Poi intervenne la spartizione dell'Europa disposta dalla conferenza di Yalta in zone di influenza, ma la vera grande ferita mai rimarginata riguarda una delle pagine più oscure, più cruente della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1941 la polizia segreta di Stalin aveva fatto massacrare a Katyn 22.000 ufficiali e intellettuali polacchi. Abbiamo in linea il professor Andrea Graziosi, che è docente di storia contemporanea all'Università Federico II di Napoli, autore di diversi libri sull'ex Unione Sovietica. In particolare ricordiamo il libro L'Unione Sovietica 1914-1991, pubblicato dal Mulino. Buonasera e bentornato, professore. Grazie, buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori. Allora, noi abbiamo tratto solo spunto da una partita di calcio, quella tra Polonia e Russia agli europei, per soffermarci sulla storica rivalità tra i due paesi. Chiediamo proprio a lei un aiuto per capire meglio dove affondano veramente le origini di questo dissidio. Sì, bisogna effettivamente spingersi un po' lontano, nel senso che la Polonia è stato, non si chiama proprio Polonia allora, ma era lo Stato polacco-lituano, era una delle grandi potenze dell'Europa continentale, come lo era la Moscovia allora, prima si chiamasse Impero Russo. E l'Impero Russo nel corso del Settecento, per inizio dell'Ottocento, è stato uno degli stati, anzi il principale degli stati, che ha smembrato questo grande Stato polacco-lituano, annettendosi pezzi maggiori, altri pezzi furono annessi dalla Prussia e dall'Austria. Le famose spartizioni polacche. Quindi dobbiamo considerare che la maggior parte della Polonia, fra cui Varsavia, è stata una città dell'Impero Russo dall'inizio dell'Ottocento fino alla Rivoluzione. E per tutto l'Ottocento la questione polacca è stata la principale questione nazionale, di conflitto nazionale dell'Impero Russo, anche perché i polacchi naturalmente erano uno dei principali patriottismi, il termine nazionalismo forse oggi è caricato negativamente, ma diciamo patriottismo ottocentesco, basta pensare a Mazzini, alle relazioni fra il patriottismo italiano e quello polacco, alle lotte polacche nel 40, insomma in tutto anche il risorgimento italiano c'è una presenza polacca, eccetera. Certo. E durante l'Ottocento i polacchi hanno fatto numerose insurrezioni contro i russi. E fra l'altro diciamo le hanno fatte, l'ultima è stata fatta subito dopo le grandi riforme del 1861 e i russi sentirono, diciamo se vogliamo, un tradimento dei polacchi che avevano tradito le riforme ribellandosi in un momento di debolezza, ma questo deve essere normale, se uno crede di essere oppresso si ribella quando l'oppressore è più debole. Quindi c'è una lunga tradizione, lunga insomma, che parte da fine Settecento sostanzialmente, c'era anche prima ma non così acuta, di tensione tra proprio i due popoli, direi, oltre che i due stati. Bisogna anche considerare, poi casomai vediamo gli aspetti più recenti, che però non è un gioco a due, perché fra la Polonia e la Russia c'è l'Ucraina e la Bielorussia, oltre che la Lituania, che facevano parte dello Stato polacco e che sono state annesse dall'Impero Russo insieme alla Polonia. Quindi in realtà il conflitto, spesso molto sanguinoso, è stato a tre se non a quattro, cioè tra lituani, ucraini, polacchi e russi, con i russi in genere la potenza dominante più forte, i polacchi la seconda, gli ucraini e lituani e bielorussi infine più deboli, ma spesso le violenze sono state, diciamo, fra tutte e cinque le nazionalità. E questo ovviamente ci riporta poi al patto di non aggressione che venne stipulato tra la Germania nazista e Stalin, il famoso patto Molotov-Ribbentrop, che comportò appunto proprio la spartizione del territorio polacco e in seguito a quel che avvenne poi a Yalta, dove poi si definirono gli equilibri geopolitici dopo... Sì, la domanda è molto giusta, nel senso, lei prima di tutto va ricordato, la gente, molti non lo sanno, i confini attuali nell'Europa orientale sono ancora quelli del patto Molotov-Ribbentrop sostanzialmente, tracciati da Stalin, e sono ancora quelli perché Stalin, che era un uomo molto feroce ma anche molto intelligente come uomo di Stato, li tracciò tenendo conto delle maggioranze nazionali e linguistiche e riprendendo i confini tracciati dagli inglesi dopo la Prima Guerra Mondiale e non applicati. Cioè Stalin tracciò quei confini annettendo nella separazione con Hitler all'Unione Sovietica e non alla Russia, come diceva lui, all'Unione Sovietica, i territori abitati in maggioranza da bielorussi e ucraini. E infatti quelle parti della Polonia annesse fanno oggi parte della Repubblica Bielorussa e della Repubblica Ucraina. Ora naturalmente in questi territori c'era una forte minoranza polacca che era stata dominante per molti decenni. Certo. E quindi per questo anche ha rinfocolato poi i conflitti tra polacchi, ucraini, russi, bielorussi, una cosa complessa. Ecco, però per capire perché poi quello russo-polacco è il conflitto principale, non va scordato che la Polonia moderna rinasce dopo la Prima Guerra Mondiale sconfiggendo la Russia sovietica, non era ancora Unione Sovietica, nella guerra russo-polacca del 1920. L'Armata Rossa arriva a Varsavia e viene sconfitta a Varsavia, è la prima sconfitta dell'Armata Rossa, e quindi questo anche sedimenta una forte rivalità e anche opposizione, e la rinata Polonia sogna di espandersi con l'appoggio occidentale verso Oriente, riprendendosi territori di una volta. Sì, quindi sì, c'è una forte polemica antimoscovita polacca, sì. E allo stesso tempo, e questo è il retroscena del patto Molotov-Ribbentrop, perché poi resta un patto di 2 anni, perché poi Hitler sì. Naturalmente invaso l'Unione Sovietica, ma insomma i tedeschi e i russi erano uniti dal desiderio di annullare quello che loro definivano insieme fin dal 1920 la creatura mostruosa della Prima Guerra Mondiale, cioè la Polonia, la rinata Polonia, che era stata spartita 100 anni prima, era vista come una creatura mostruosa. Ecco, professor Graziosi, ma quanto pesa nell'immaginario, diciamo, collettivo, anche nella percezione della memoria storica e delle diverse rispettive opinioni pubbliche, e quello che avvenne poi nel 1941 nella foresta di Katyn, quando vennero uccisi 22.000 ufficiali intellettuali questo polacchi? Questo fa parte esattamente di questo quadro, perché, come le ho detto, quando sia Germania e Unione Sovietica si spartirono i territori della Polonia e i sovietici presero quelli a maggioranza ucraini e bielorussi, in questi territori c'era una forte minoranza polacca e c'era una parte dell'esercito polacco, naturalmente. I sovietici presero prigionieri gli ufficiali e decisero, dopo un anno circa che erano prigionieri, di eliminarli. I fucilati furono, insomma, le cifre non sono mai precise, ma circa 25.000, in 3 campi diversi. Noi conosciamo Katyn, che è più famoso. Naturalmente questo Stalin negò ovviamente che questo fosse successo. Di fatto uno potrebbe addirittura tracciare l'origine della guerra fredda alla scoperta da parte dei tedeschi delle fosse di Katyn, perché i polacchi, che sapevano che non erano stati tedeschi, anche perché le prove evidenti erano che la cosa era stata fatta prima dell'invasione tedesca di quei territori, ruppero le relazioni diplomatiche con l'Unione Sovietica. Fu la prima frattura interna a quella che allora si chiamavano le Nazioni Unite contro il nazifascismo, che erano poi le Nazioni Unite che oggi chiamiamo le Nazioni Unite dell'ONU, diciamo. Sì. La cosa ha pesato enormemente. È stata leggermente temperata dal fatto che dopo la guerra a Yalta Stalin e Roosevelt raggiunsero un accordo con una posizione flebile, ma anche perché aveva poca voce in capitolo, di Churchill, di spostare la Polonia di circa 150-200 km a occidente, una cosa che pochi considerano, come se l'Italia fosse spostata a nord di 200 km verso la Svizzera e le fossero tolti, non so, la Campania, la Basilicata e la Calabria. Certo. La Polonia perse Leopoli, che era una delle più grandi città polacche, perse anche Vilnius, che era una grande città polacca fuori dalla Lituania, e perse appunto i territori che l'Unione Sovietica si era annessa col patto Molotov-Ribbentrop, ma acquistò i territori tedeschi, da dove fu l'espulsione di milioni di tedeschi. Sì. Naturalmente, ecco, questo per alcuni decenni ha temperato il dissidio fra sovietici e polacchi, perché i polacchi sapevano bene di avere bisogno dell'Armata Rossa per impedire rivendicazioni tedesche sulla parte della Germania annessa dalla Polonia. Grazie professore, grazie molte per questi chiarimenti e buona serata e buon lavoro. Grazie a lei, arrivederci. La storia e la memoria torna tra poco. La storia e la memoria. Bentornati alla seconda parte della Storia e la memoria. Radio 24, in collaborazione con History Channel, vi presenta un approfondimento dedicato all'ipotetica relazione tra fede religiosa e il successo che ha riguardato l'intera società occidentale nel secolo scorso. Scopriremo se, come sostenne il sociologo Max Weber, l'etica professionale del protestantesimo è stato un fattore fondamentale per l'ascesa dell'Occidente. Vi ricordiamo che la versione integrale del documentario andrà in onda domani, domenica 24 giugno, alle 6 su History Channel. Nel suo Declino e caduta dell'Impero Romano, lo storico Edward Gibson dà un'interpretazione efficace dell'ultimo tracollo dell'Occidente, avvenuto 1600 anni fa. Oggi molti di noi sono convinti di trovarsi di fronte al sequel dello stesso incubo, Declino e caduta parte seconda. Diversi segnali finanziari e climatici sembrano avvisarci del disastro incombente. La civiltà occidentale è di nuovo al collasso? La tesi più radicale e polemica di Edward Gibson sostiene che il cristianesimo sia il solvente letale della prima versione della civiltà occidentale. Ironia della sorte, è proprio una variante del cristianesimo a fornire il sesto segreto del successo della nostra civiltà occidentale. È una variante nata in Europa nel XVI secolo, il protestantesimo e l'etica del lavoro, a cui notoriamente ha dato il nome. L'etica professionale protestante riveste un ruolo cruciale nell'ascesa dell'Occidente. Ecco uno dei grandi misteri della civiltà occidentale. Come mai essere un ricco industriale dell'Europa del XIX secolo coincide spesso con l'essere protestante? Nel XVI secolo la Riforma conduce molti paesi nordici ad allontanarsi dalla Chiesa cattolica romana. Al tempo stesso, si osserva la transizione del potere economico da nazioni cattoliche come Italia e Spagna verso quelle protestanti come Inghilterra e Germania. Sembra esserci uno stretto legame tra l'oggetto della fede, il tipo di credo e il successo negli affari. Ma cosa faceva del protestantesimo la religione di chi non solo lavorava sodo, ma risparmiava e accumulava del capitale? Perché il protestantesimo era così interconnesso con la storia del successo della civiltà occidentale? Ebbene, chi poteva rispondere a questo quesito era un professore tedesco sull'orlo della depressione che coniò l'adagio più imperituro della letteratura sociologica, l'etica protestante del lavoro. Max Weber è un giovane molto precoce. Cresce qui a Erfurt, una delle roccaforti più importanti della riforma tedesca. Già all'età di 14 anni, Weber scrive lettere pregne di riferimenti ad autori classici del calibro di Omero, Virgilio e Cicerone. Crescendo però si interessa sempre di più alla religione. Weber riflette sulle ragioni per cui la riforma rende l'Europa settentrionale più orientata al capitalismo rispetto al suo meridione. Fu un viaggio nel lontano West che fornì a Weber la vera chiave dell'etica stacanovista occidentale. Nel 1904 Weber giunge a St. Louis, in Missouri, per partecipare al Congresso delle Arti e delle Scienze all'Esposizione Universale. Weber rimane stordito dalle luci sfavillanti del Palazzo dell'Elettricità. Il re della corrente alternata, Thomas Edison in persona, l'incarnazione dell'imprenditoria americana, è a un passo da lui. A St. Louis si concentrano le meraviglie della più moderna tecnologia. Telefoni, lastre di acciaio gigantesche e persino il cinematografo. Ma il vero portento dell'Esposizione Universale di St. Louis del 1904 non era la dimensione, bensì il fatto che ogni singolo padiglione contenesse qualcosa per cui il pubblico era disposto a pagare pur di vedere. Si generava del profitto. Come si potevano spiegare le dinamiche di una società al cui confronto addirittura l'industrializzata Germania appariva obsoleta e indolente? In una sorta di delirio maniacale, Weber viaggia su e giù per gli Stati Uniti in cerca di risposte. Infine, sul treno che da St. Louis conduce in Oklahoma, passando per le cittadine del Missouri, Bourbon e Cuba, Weber trova soddisfazione. St. James, un paesino del Missouri, a 150 km a ovest di St. Louis, uno delle centinaia di insediamenti sorti lungo la ferrovia che si addentrava nelle zone della grande corsa all'ovest. Però agli albori del XX secolo, Weber, percorrendo queste lande, non poté non rimanere colpito dall'impressionante numero di chiese esistenti, tutte con un nome diverso dall'altra. Dovunque volgesse lo sguardo, sembrava esistere una santa alleanza fra la crescita economica e la fede protestante. Di ritorno presso il suo studio di Heidelberg, Weber scrisse la seconda parte del suo illuminante saggio, L'etica protestante e lo spirito del capitalismo. In esso Weber identifica l'elemento cruciale del protestantesimo che accelera e stimola il successo economico. Le altre religioni associavano la santità alla rinuncia ai piaceri terreni, come i monaci di clausura e gli anacoreti negli eremi. Le sette protestanti, invece, la vedevano diversamente. Per esse la parsimonia e l'industriosità erano l'espressione di una nuova santità laboriosa. Fin dalla notte dei tempi, l'uomo deve lavorare per vivere. I protestanti, invece, vivono per lavorare. Quest'etica del lavoro, sostiene Weber, è alla base dello spirito del capitalismo. La sua tesi principale sostiene che i protestanti siano gran lavoratori per chiamata divina. Devono appunto lavorare, accumulare e contenere gli sprechi per dimostrare la propria comunione con Dio. Secondo Max Weber, l'etica protestante è l'anima del capitalismo occidentale. È uno di quei fattori che distinguono l'Occidente da un Oriente spesso inoperoso e poco realista. Grazie a una miscela di duro lavoro e parsimonia, le società protestanti dell'Atlantico nord-occidentale ottengono la crescita economica più rapida della storia. Ma attualmente, uno scisma logora il cuore del cristianesimo. Gli europei di oggi lavorano molto meno dei loro omologhi americani. E non solo lavorano meno, pregano anche meno. In Inghilterra, per esempio, meno del 2% della popolazione attuale assiste regolarmente alla funzione domenicale. Un comportamento anomalo se si considera che nel resto del mondo la fede non è solo importante, ma in crescita. Allora, chi ha ucciso il cristianesimo in Europa? Forse, come predice lo stesso Weber, il materialismo ha corrotto l'originaria austerità dei protestanti? Oppure l'eredità darwiniana della teoria dell'evoluzione ha scalzato con successo la teoria biblica della creazione divina? Oppure il cristianesimo europeo sta naufragando nell'egoismo, l'egocentrismo cronico della cultura moderna? Forse l'assassino dell'etica protestante del lavoro europea non è altro che lo psicoterapeuta viennese Sigmund Freud. In L'avvenire di un'illusione, il padre fondatore della psicoanalisi presenta una versione in totale contrasto con quella weberiana. Per Freud, la religione non è la forza motrice delle conquiste della civiltà occidentale, ma piuttosto un'illusione. Per lui è una nevrosi universale inventata dalla civiltà per impedire alle genti di dar sfogo ai propri istinti di base. A partire dal desiderio sessuale agli impulsi violenti e distruttivi. Ecco la versione di Freud. Se si eliminano i dettami religiosi, gli uomini penseranno di essere liberi di andare a letto con tutte le donne che desiderano, di uccidere i loro rivali e impossessarsi delle loro ricchezze. Lo scopo della religione era di proibire promiscuità sessuale e violenza. Freud ci dice che la religione è un pilastro strutturale della società civile? O forse prende le parti di quanti pensano che le loro più intime pulsioni sono intralciate o represse da sciocche superstizioni? Forse sono le teorie di Freud che predicano il rifiuto della repressione e la consapevolezza dell'impulso erotico a persuadere gli europei ad abbandonare le chiese per entrare nei sexy shop. Sono in molti a credere che ormai l'Occidente sia ridotto a questo. Una vacua e lussuriosa celebrazione dei piaceri della carne. In parole povere, è stata la pornografia a uccidere Dio in Europa. Avete ascoltato il documentario realizzato in collaborazione con History Channel dal titolo L'Occidente, i segreti del successo, la giungla del lavoro. Produttore Susanna Price, titolare dei diritti BBC.